anni, il grande, di un anno molti, no? Che più o meno all'età tua, il grande, questo è il ragazzo, molto più ragazzo, giovane, no? È giovane, certo, giovane, ma ha già 40 anni, chissà, non è giovane, no? Sì, non è più piccolo, però ha una trentina d'anni, quanti anni ha? Questo ne abbia di più, dai, era ragazzino perché ci andavo già a cioè, 20 anni fa già lavorava lì nel fratello col padre, era un ragazzo giovane, 18 anni, cazzo 20 anni fa, risulta 20, cazzo già sotto 38 me. Però Giovanni è più grande. Giovanni avrà sui 48-49 anni. 51 avrà Giovanni. È una cosa del genere. Non so se è del 60 o 50, no, non lo so, 61 tu. Comunque già grandetto. Vabbè. Avanti, fa che? Un attimo, mi squilla, riprendo subito. Mamma mia, come sto sempre al telefono. Avanti a chi tocca? Antonello Pomponio, riprendi. Che Antonio Grode si sta mangiando l'anguria. Che cosa era? Non mi ricordo più. Ma ho fatto discorso a voi. Che discorso mio? Sto mangiando la frutta perché sono entrato tardi. E tra l'altro ho anche mangiato abbastanza oggi, ho accattozzato, c'è una riunione, una nasce domani, una venire mattina di mare. Oh, sopra noi siamo poveri. È positivo, dai, è positivo. E noi anche oggi stavamo parlando con gli amici così, e sono riuscito a fare qualcosa 20 anni fa. Dicevo, adesso mi sono convinto di una cosa, prima c'avevo una speranza, dito, ma che un giorno o l'altro potevo diventare ricco, dice, però questa speranza mi è passata. Sono sicuro che rimarrò sempre povero, non ci diventerò più ricco. Che schifo lui, lascia perdere, non parliamo di lavoro, che è una crisi totale, basta. Noi stiamo ricapitalizzando tutto, stiamo rivedendo tutte le cose, c'è una riunione a Canigavanti ieri con la Sardegna, c'era una oggi a Castelsardo, un'altra c'era a Chiaglia, insomma siamo tutti i giorni in assemblea permanente perché dobbiamo capire, vedere e soprattutto sapere e conoscere il destino di questa società, perché insomma chi dice che la multinazionale che sta gestendo adesso vuole prendere in mano la situazione, ma che la prenda, se no la casa madre continua a gestire accumulando solo debiti, perché sta gestendo accumulando debiti, stipendi non sono arrivati, 27, oggi è 28, vediamo domani, insomma qualcosa dobbiamo capire, perché altrimenti la cosa veramente, come diciamo noi modulatori, puro sangue diventa tribola. Campano gli altri, volevo dire stamattina c'era nel sbarcato produttore di Paranautica, nel sbarcato del Paralese e mezzo, sbarcato stamattina, però stasera imbarca da Olbia, da Ufaraccia, lo so, e viene quasi 3 settimane, non ho fatto sapere niente tramite Costanzo. Non mi hanno lasciato messaggi Costanzo sulla bacchetta, evidentemente non si è ricordato di dirglielo barra Nautica Costanzo, ma se gliel'ha detto già mi lascia un messaggio qualcosa. E vabbè, Gigi, non è così urgente, adesso vediamo, io voglio prima capire, perché sono anche in contatto con Pinuccio, c'è un altro amico anche lui che collabora a Cagliari, io voglio capire che differenza c'è tra noi e loro, se c'è poca differenza te lo compro qua, se invece c'è a risparmiare qualcosa allora lo compro al continente. Un attimo, posso? Vai. Infatti Barra Nautica stamattina mi ha detto che aveva portato quella commissione, pensava che quella commissione la doveva dare a me, mi ha detto guarda che forse tu quella commissione dovevi dare a Marco Fabiano o a Gigino Volcano. Ah sì, è bene, bene, bene, bene, poi ha detto, deve essersi ricordato, sì, quella questione che stai parlando tu, ne ha parlato con me Barra Nautica. Ma chi è, se cosa ti ha detto, qualcosa ti ha detto? Sì, ma ha detto che ce l'aveva lui, capito? E lo lasciava, non so a chi, faceva sapere a chi, a macchina di Don Vigna, adesso non so se stava riferendo a te o a Claudio, capito? Ma non è che si è preso d'accordo con Costanzo, no? Ma che previa gli ha preso detto? Ehi, così veloce ha fatto. Perché lui è vicino di dove questa cosa l'ha detta lì, proprio vicino. E lui mi ha detto che ce l'aveva, capito? Infatti prima, in un primo momento, quando sono entrato io l'ho salutato, ma mi ha detto, Falchetto, ti ho portato quella cosa. Poi ho fatto, no, non posso confondere a me. Che cosa mi devi portare a me? No, vabbè, stai confondendo, ma non è che devi portare a Claudio Sfalvino o a Gigino Vulcano. E poi se corretto, tu sì, era, non mi ricordo se era a Claudio o a Gigino. Ho capito, ma a me cosa non mi ha detto che me lo mandava subito. Ma ha detto che le chiedeva quanto costava. Non lo so, si è riferito a me. Non lo so. Io cosa ha detto? Chiedi quanto costa e fammi sapere. Non sapevo niente, evidentemente ha preso qualche granchio. Non lo so, comunque, sei già qua, non ci sono problemi. Ma ha portato roba anche a Tommaso, mi. Quando a lui ci serve cosa, lui ce la porta subito, lui viene ogni settimana qua, capito Mike? Non ci serve qualcosa, che glielo chiediamo, ce la porta, capito? Però non penso, comunque a Tommaso ha portato roba stamattina, a Tommaso, capito? Perché hanno altre cose, hanno altri contatti, altre cose, capito? Di quando ci serve qualcosa, che noi, loro, tranne amici, sai come siamo fatti noi 45, ci conosciamo quelle di quella zona lì, quelle vicino lì, e ci arrivano in Sardegna come un baleno, hai capito come funziona, Claudio, anche dalla Sicilia, lui dalla Sicilia, Tommaso, la roba, c'è tutti gli amici, lui Tommaso, che arriva la nave, arriva la nave lì a Cagliari, al porto, quando sbarcano, cioè arriva e gli mandano la roba che gli serve a Tommaso, gli arriva una volta a settimana, mi capito, va e viene. E così è con da sul continente, la stessa cosa. E no, adesso è a Olbia, lui guarda la nautica e a Olbia, però ha portato roba, per che gli hanno poi ordinato loro, Costanzo, e ha portato roba per Tommaso pure, capito, stamattina, si sono trovati a muro, mi ha detto Tommaso, mi ha detto, siamo trovati a muro, sono con Baranotti che mi ha portato delle commissioni, capito? No, ragione io, non ci trovo assolutamente niente. Magari aveva anche la commissione per me, magari il prezzo, il catalogo, perché lo ti portavo in catalogo, i prezzi e tutto quanto, forse hai capito, ma no, ma l'apparecchiatura che ho chiesto, possibile, io gliel'ho chiesta la mattina ieri, quindi non lo so, vabbè, adesso mi sto accendendo il computer, avesse costato, mi ha mandato qualche messaggio, e se l'ha consegnata a lui che per me non c'è un problema, va a ritiro. Beh, ti ha pagato, adesso non so se era Parigi o il giornale, non so, qualche rivista, non ne ha parlato, ha detto che aveva portato la commissione e che ce l'aveva lui. Lui che l'abbia data a Costanzo non lo so, la verità è. Adesso vediamo se mi ha mandato qualche messaggio sulla bacheca di modulato di puro sangue o se mi ha mandato qualche mail di Costanzo che c'è tutto lui, adesso vediamo. Che mai tu mi faceva sapere, quindi. Kappa, riprendi. Pensavo io gli faccio una bassa adesso a Giannuccio, cioè il numero di telefono. Siamo abbastanza amici e che cosa con la nautica. Posso fare anche una bassa io. Kappa, va bene, fai. Dai. Vabbè, vedete voi, dai, intanto sto facendo il computer. Continuiamo a modulare. Avanti a chi tocca. Adesso lo chiamo io e gli dico di fammi sapere cosa costa, di farmelo sapere o a Costanzo, a me cosa costa, adesso gli faccio una bassa Claudia. Te lo ricordi quello che ti ho chiesto? Forse me lo ricordo, 501 da 220, quello a 220 per cassa, chiesto dello show. No, fanno più 501, 507 fanno. Ma chi te l'ha detto questo? La paranautica. Così ho sentito io, no, Antone. Abbiamo preso quello che c'è il 501 24 dentro, però da Matti c'è un 501 all'interno è un 501. Esternamente c'è scritto un'altra sigla. Sì, quello davanti a te, 507 uguale a quello, 220 uguale a quello, a 220. Prova a sentirlo, vedere, perché è un giocattolo della media, non deve, non lo facciamo andare, cioè della media, della delta G. Tanto fa una cosa invece, Claudia, te lo vuoi segnare, te lo segni per cosa, non si sa mai questo numero di telefono, te lo vuoi segnare il baranauti. Ce l'ho, mi ha dato Costanzo. Dai il numero di baranauti, che allora vedi, facciamo passare. No, ce l'ho, infatti sto accendendo il computer per avessi mandato qualche messaggio. Ma sono qua comunque, sono davanti, ce l'ho. Guarda, io anche davanti, ce l'ho. Vediamo se fate. Vediamo, fate girare, riprendi a tu. Kappa. Ehi, va bene, intanto gli giro di spazio dalla massa. Ma non c'è rimasto nessuno nella ruota. No, ce l'hai. No, non è raggiungibile. Sono dentro la nave, io sono le 9:30, ho 30 la nave. Volassi. Sul 45 lo stavano salutando prima. Lo stavano, gli ho mandato i saluti io nel 45. Oh, va bene. Ma non penso sia imbarcato l'elopero. Non so, secondo lo sai, che l'aveva devi abbigliare. Ah, beh, se quello che ti puoi non vedere e prendere, sarà anche imbarcato. Positivo, dai. Comunque ho verificato adesso così questa radio. Sì. Positivo, dai. Che a paroccia, no, non ho già verificato. Ora. Aspetta, allora c'è Pippo, Pippo Caffettiera, 60-73, ben sentito, cambio. Poi c'è Max, 73 cordiali, e poi chi c'è? Costanzo, straniero, eccolo qua, ciao ragazzi, sono il barbiero, ciao a tutti, ci vediamo, Costanzo, sera, ma non mi ha mandato di nulla, non ne ho di rivedere, Costanzo non ne ho. Positivo, comunque già chiede, già un amico baronato che già chiede, già si informa, dai. Vabbè, non c'è problema, adesso già, oggi perché ero fuori tutto il giorno, ho fatto l'aria continuata, poi rientro, eccetera, domani che già esco presto per lavoro, appena arrivato a casa, mai ce l'ho chiamato Costanzo al 45. Mi ero in QRX, stavo avendo una bassa dietro l'altra, perdonate. Vabbè, se sono quelle basse là già vanno bene, ma caduto, segna tutto. Rimando qua. E siamo io, Gigi, Antonio Falchetto, Antonello, non so se sta ancora controllando con l'antenna, poi sta facendo. Niente, dai, siamo qua. Non c'è altro nessuno che vuole entrare. Avanti chi vuole entrare, c'è posto. In qua tra ballare la Ligalli, non c'è nessuno. Oh, Falchè, ma è questo gommone l'abbiamo messo in acqua oggi. E sai quanta gente c'è in ascolto, non può entrare. Muore l'acqua, oh yeah. Ma te puoi mettere il gommone d'acqua, no? Non era così male? No, non lo so perché io stavo trabaccando e non ci sono andato la verità. Dai, adesso vediamo. È un fine settimana, devi mettere un po' a mollo. Giro, cosa sta dicendo qua? Ho detto se sai quanta gente c'è in ascolto, non può entrare, o non vuole entrare. Entrare mi dispiace e non so dargli una motivazione. Non vuole, rispetto sempre la decisione degli altri. A me mi fa un piacere se non entro. Avanti, Falchè. Cappa di rogero. Ehi, così. Adesso vediamo i mari, come cavolo si mettono, perché non è detto che ha detto addirittura a migliorare a domenica, addirittura le previsioni. Così ho sentito nel bollettino nautico, sì. Capito, magari farò belle giornate, però i mari sono sempre musi e così che non fa. Mari a Porto Torres. Tanto, e di Pisa. No, questa radio ha il problema è che qua arrivi talmente forte, a lui non l'avevo sentito, capito? Ha tirato un'impennata che era diverso dal solito il suo segnale. Tant'è vero che pensavo fossi tu quando sono entrato, che avessi un attimino messo qualcosa, e aveva la radio un po' satura, però la sua, e c'aveva qualche problema, come hai detto tu c'aveva un po' di alternata. Sono potente quel saletta. Come è tratto Massimiliano, non te l'hai sentito? Gigi, è stato Massimiliano con saletta, è tornato, non fare paura. Dio, dove sono? Sono un po' veramente con saletta. No, io non l'ho mai provato. Non l'ho mai provato e ne ho tanti nel gruppo. E quindi c'ho sempre questo tranne più tre collegato qua. Benissimo, io l'ho lasciato questo, ma quello è veramente una schioppettata. No, c'aveva un leggero rumore di alternata perché c'aveva il microfono sopra il baracchino, capito? Siccome c'è una ventolina col baracchino modificato, se la stava portando appresso, però sono stanca e micidiato, non me la radio fortissima. A proposito dei microfoni, poi rilanciamo a Gigino che lo stiamo lasciando in parcheggio. Insieme al 140 sono riuscito a portare via, sempre a quel prezzo, a 2,40, questo microfono cioè questo microfono fisso che è amplificato, che si chiama Static. Bellissimo, l'ho avuto io, bellissimo microfono, non ha nessuno quello, non ha nessuno, le facciamo la modifica per il 140 e va molto, ma molto bene. Guarda come che c'ha le MC60, vuol dire a statici, c'è scritto a static, ha la capsula simile a quella di MC60, praticamente è una capsula in porcellana che è molto molto rara da trovare. Ottimo microfono, bravo Antonio, ha pizzicato la grande. E adesso bisogna vedere cosa ne arriva. Comunque il pacchetto prevedeva per 242 euro, perché sono riuscito all'ultimo a... Tu immaginati, stavo facendo l'asta mentre stavo salendo su a Usilo, al Monte di Usilo, quando è 3 giorni fa, quando ci siamo sentiti. Il morale 242 euro, il 140 dice che è nuovo, perfetto, chiaramente non può dire bugie se non si becca il feedback negativo, più il cavetto di alimentazione, il microfono normale, quello LS, non mi ricordo che cosa, 435 come si chiama, e poi questo Static qua, l'ho visto, sembra nuovo, bianco, di colore bianco. Però è nero quel microfono, è nero la Static. Aspetta che lo controllo un attimo, aspetta che lo guardo, perché mi sembra che nera sia la retina della cosa, come si chiama, dove parli, un attimo. No, io l'ho avuto la Static, in realtà quello è nero, guarda, è simile al tale più 3 che sto modulando io, quello che c'ha Gigi, anzi mio, c'ha il portacapsula che è praticamente è il colore argento, perché questo è il Turner Super Sideri, quello invece che c'ha Luigi, il Turner più 3 è tutto nero, ed è simile, è proprio identico a quello che c'ha Luigi, con la retina grigia. Non c'è niente di bianco, ma anche quello da pallone è tutto nero, guarda, perché io li ho avuti tutti e due. Ma io ce l'ho davanti, lo sto guardando, è tutto nero, anche la retina è nero, ed è l'878DM, attacchi, 878DM, ed è tutto nero. Io adesso non mi ricordo la sigla di quello che avevo io, perché... E tanti tanti anni fa che l'ho avuto, l'avevo collegato alla linea break, e andava che era una sette quando era laterale, veramente ultimo microfono. Sì, hai ragione, era nero lui, tutto nero, anche non la retina come la tua argentata, era tutto nero. Però bianco, di bianco non c'è niente. Certo, non è che ti ha dato un microfono marino, perché i microfoni bianchi sono marini, eh. Sto controllando un attimino, perché in prima cosa non l'ha messo. Un attimo, dimmi, togli una curiosità, ma per un 440 invece quanto si può arrivare a spendere? Quello che ho dato io ne avevo due. Quello che ho dato Sandro, la valutazione, io gliel'ho fatta a 450 euro. Papa Roger. Quindi è una valutazione media, alta o bassa? È la valutazione migliore che si può dare per una radio che funziona bene, deve avere tutto, però è quella che volta siamo già tutti i filtri, tutti praticamente, quelli per la MFM e la laterale, che costano parecchi quei filtri, perché sono tutte delle cose aggiuntive, perché c'è poi sotto una tastiera per inserire i filtri e quindi per farlo. Poi, vabbè, la sfera volume non c'era, non ce l'ho neanche io perché è una cazzata. Con l'accordatore, un accordatore inserito. La modifica appunto dei watt, perché quello che ho adesso non c'è lo stadio MOSFET, lo stadio finale MOSFET. E anche quello che ho io, allo stadio finale MOSFET ne avevo due. Il valore è quello, siamo a 400-450 euro, l'ho voltato perché avevo tutti i filtri, ma considera che l'unità aggiuntiva dei filtri costano 160-170 euro l'uno, ce ne sono tre, e quindi insomma, abbiamo fatto 450 euro. Claudio, ho parlato con Badanautica, mi ha richiamato lui. Come ti ha detto? Se no, deve andare domani a chiedere, ce l'ho a 8 km da casa sua, l'ha detta G, capite, 8 km da casa sua, poi lui conosce tutti lì, conosce bene tutti, capito, e domani, perché sabato è chiuso, domani va e chiede e mi fa sapere quanto costa, capito, domani va, se fa in tempo, perché tanto si può circolare fino alle 16, se ce la fa, dice domani prima che chiuda, e la detta G passa, perché sabato è chiuso, si avvicina e chiede quanto costa, capito, poi... lui ce l'ha 8 km da casa sua, sono 8 km giusti giusti. Ah, perfetto Gigi, ti ringrazio. Così facciamo la comparazione e poi vediamo, tanto io adesso domani vabbè ancora venerdì, quindi fine settimana sono impegnato al QRL, però sabato mattina o domani sera stesso se esco, tanto va male a portare la Peugeot di andare a fare la revisione e magari ci passo da Fusano e sento a vedere cosa mi dice. Secondo quanto costa, prima però aspetto la risposta di Baranautica. Positivo, positivo. E ti faccio sapere anche quanto costa questo microfono domani. Ti chiedo, guarda il terziario che c'è la tucca e tipo quanto costa questo così si chiama. Ti faccio sapere anche quanto costa quel microfono lì. Il tasto di portante rettangolare grande che è bianco. Io ce l'ho davanti, lo sto guardando e ce l'ho davanti questo microfono, ce l'ho davanti, cosa hai detto altro? Cosa che è a bianca è il tasto grande rettangolare di portante che ha il microfono stesso. Ma c'è il bianco, c'è il tasto che schiacci per sì, quello lungo, quello è bianco grigio dai, più o meno, è quel colore lì, quello c'è, l'altro è tutto nero però. Io a dire la verità, siccome ne stavo guardando talmente tanti di queste, perché me ne volevo prendere un altro di questi Kenwood, stavo guardando anche un altro, un 440, e col 440 invece stanno dando un microfono che è completamente bianco, che non so neanche realmente cosa sia, però sì, si conferma, è completamente nero e c'è il tasto bianco qui, spero che sia stato già modificato perché è in abbinato con questo qua, nel caso te lo porto e lo vediamo. Voglio una trattata, tu portale via tutto, poi vieni qua e lo colleghiamo, vediamo subito, apriamo il mio, vediamo subito come è fatto, ci mettiamo 2 minuti a fare i collegamenti. È già partito, guarda, lo sto seguendo col tracking, dovrebbe essere qua domani mattina. Così vabbè, fine settimana e sabato vediamo la botta immediata. L'unica cosa, ti dico la verità, mi sarei voluto accaparrare più il 440 perché la storia che non ha il 140, che non ha l'accordatore, ma c'è anche uno Smitter, cioè lo Smitter Rosmetro, il 440. Tutto già, accordatore, Rosmetro, wattmetro, 440 è completo, c'è 100 memorie, c'è tastiera di TMF, una bella radio, la vieni qua, te la faccio vedere, una bellissima radio. Io sotto ho letto il 430 che è simile, sentito far che buona carica e buon QRT, ci sentiamo dopo. Ocla. Sì, stavo dicendo, come alimentatore cos'è che stai usando? Il suo di linea, la PS50, guarda, se tu vai a cliccare su motore ricerca fai TS430 della Kenwood, AT250 e PS50, e la colonnina poi la semplice, non ricordo come si chiama, sono a buio qua, cioè sono a buio, cioè sarete accesi, ma non lo vedo così, SP, USP, non so, 230, una cosa del genere. Però è molto interessante se ti trovi un AT250, visto che hai preso il 140, non ti conviene gareggiare per il 4,50, per il 4,40. Penso che con 250 euro ti trovi l'AT250 e hai la linea ed è favoloso. Ma vabbè, io adesso come alimentatore ho il Telecom, quello da 30 ampere, che credo che vada bene. Adesso non so quanto assorbe il 140 o comunque il 4,40. Dopodiché il 120 com'è? 120 cosa? TS120? Ma che dovrebbe essere antecedente al 140? No, antecedente al 140 c'è il 130, il TS130, il 120 è con lo stadio finale a valvole. È transistorizzato ma c'è lo stadio finale a valvole. E come valutazione bassa? Ma sono delle valutazioni mediocre che fanno alcuni radioamatori. Se ne riscano anche il TS130, una bella macchina, però il problema è che c'è il preselettore per l'accordo, devi stare molto attento perché se sbagli la preselezione in accordo porta tenuta, bruci le valvole e non sempre le trovi, le CIOTA BC, che sono quelle praticamente che montavano prima la linea Drake. E siccome la Drake ha collaborato moltissimo con la Kenwood e tante cose, si faceva lo stadio finale uguale. Sono delle valvole strette e lunghe e non sempre le trovi, e quindi bisogna stare attento soprattutto al preselettore prima di andare in modulazione, devi andare in CV doppio, preselezionare la posizione, quindi in watt la massima potenza. È come quando stai accordando un lineare, la stessa cosa, devi accordare la massima potenza a portante muta, poi molli, passi in AM, un FM, ma davanti non è proprio dove è tranquillo, però devi stare attento al preaccordo. Una cosa, ma invece il 140 dovrebbe avere la protezione, qua in autoprotezione sia stazionari? Non sempre, il 140 c'ha il sistema di protezione sull'inversione della polarità. Fa in protezione, praticamente blocca la posizione dell'energia al momento in cui tu stai andando in distorsione e basta. È capitato, ti faccio una domanda, di andare su una frequenza sbagliando, però poi ci ho fatto caso proprio perché sbagliando poi ho schiacciato portante e si è come spento l'apparato, o meglio è andato in blocco rimanendo come se avesse la portante inserita. Esatto, ti ha bloccato il selettore dell'LC, quindi è rimasto lì incollato e ti ha detto tu qui no, io qui non sono abilitato a trasmettere praticamente, e quindi è rimasto lì dell'LC che dà il consenso alla modulazione e ti è rimasta bloccata la spia rossa del TX, e quindi automaticamente tu l'hai spento, l'hai resettato e riacceso sicuramente. Sì, è stato un errore sui... ero forse sui 10.000, è possibile? Sì, ma sono cose che possono succedere, corretto. Ah, ecco perché non riuscivi poi a inserire il decimale, ricordati, sul 140 per inserire il decimale 00 lo accendi tenendo premuto clear e ti appare il decimale 00. Ti ripeto, è una radio assolutamente che non sto usando per i vari motivi, per i motivi che sai, nel senso che mi piace rimanere per adesso, o meglio, col baracchino, visto che a questo sono abilitato, quindi. Quando vuoi, ti ho detto, lo porti qua, io ti collego alle MC60, le faccio quelle, visto che non stai usando, le faccio quei controlli, quegli accorgimenti, vuoi miei, e te lo faccio sentire, così te lo porti via già pronto. Giordano. Il problema è che adesso te ne devo portare due. Sì, ci spaventeremo, mi dirà Falchetto, io ne avevo quattro quando è venuto lui. È una passione che ho su quelle radio, le conosco come le mie tasche, quindi guarda, Sandro, quando, perché l'abbiamo c'era proprio il segnalatore, quindi l'indicatore, cosiddetto segnalatore di ricezione completamente al vero. Gliel'ho messo, gliel'ho tarato preciso alla mia, era una radio perfettissima, capito? Però sono cose che possono succedere. Esattamente sì. Tra l'altro una cosa che non si trovava più, adesso ne ho, volevo ordinarle da Fusaro ma non c'erano, sono i carichi fittizi, che poi erano quelle lampadine che si mettevano dietro, almeno per gli apparati, non per gli apparati, per i baracchini, e ne ho trovato un paio su internet e le comprate subito. Ah, ma quelli prendete lì, quando ci sono su internet queste cose così interessanti, l'ho comprato un carico fittizio a 20 euro, sino a 100 watt, però insomma ti fa lavorare, se fai una taratura su una radio come il 4, come il 440, 100 watt, insomma quelle che vuole, basta che le metti a pochi watt, lui insomma ti fa lavorare, anche che attaccare l'antenna esterna, che è sempre un pericolo per fare taratura, ricordiamocelo sempre, per fare la taratura di un HF, per qualsiasi cosa, qualsiasi trattata, è sempre meglio farla carico fittizio. Luigi tratta molto con i baracchini e anche lui quando fa delle cose, delle tarature, l'ho visto, c'è sempre il carico fittizio. Così esige. Dirò Claudio positivo. Dice, stiamo monopolizzando la cosa, stiamo facendo un po' di ping pong. Perdona. Per carità, io sto ascoltando, dai. Solo che ci vuole, per quelle radio lì ci vuole passione, Claudio lo sa, io me ne ha fatto comprare una, Claudio, di 140, un paio d'anni fa, due o tre anni fa, se non mi ricordo, e niente, no, ci vuole passione per quelle, io non mi preoccupo, niente, no, sono abituato ad accendere, lei quella non mi, infatti è andata a finire che gliel'ho tornata a Claudio, non so se quella mi tutta qualcuno, se c'era ancora, e gliel'ho tornata con l'MC, avevo preso tutto, è tutto abbinato, tutto lo scuario mi aveva fatto, avevo preso l'MC60, tutto abbinato era le 140, con l'MC andava benissimo, che poi me l'aveva tutta controllata Claudio, me l'aveva piazzata in stazione, e messa in coso, però ogni tanto mi incasinavo, io ero, troppo complicata era per me, capito? A volte sbagliavo, toccavo qualche tasto e mi andava fuori, dovevo votare Claudio, vieni che io non riesco più a farla andare, e mi incasinavo, capito? Allora il signore che gliel'ho tornata nuovamente, l'ho tornata nuovamente a Claudio, abbiamo fatto cose, altre operazioni insieme a lui e gliel'ho tornata. Allora lui, questo è 140 tour. Allora adesso è vero, per lui chiedeva più alla mano, io mi incasinavo e sono delle belle radio, sono delle belle radio, perché poi mi aveva tarato quella, se ero solo, no? Su una camera se solo, tu puoi parlare tranquillamente a distanza senza microfono, con l'MC60 era sì, mi pare, mi aveva tarata benissimo, passavi, parlavi e come che schiacciavi la portante, ti ricordi Claudio, hai fatto quella taratura lì che la volte la inserivo quel tasto lì, quando ero solo potevo parlare senza microfono, senza toccare il microfono, capito, anche facendo altra cosa potevo girato, potevo parlare benissimo anche a 10 metri quasi di distanza, quasi. Sì, ti ho fatto la taratura al Vox, questo è il 140, Antonio Lotte, questo è il 140 con l'MC60 ed è quello che mi aveva restituito Luigi, lo uso pochissimo però a quella modulazione è favolosa, anche come ricezione va bene. Assolutamente sì, assolutamente, non è per niente impazzata, è potente, bella modulazione, mi piace sì. Ma queste qua sono tutte radio comunque degli anni 80 se non sbaglio. Registrato il break. Guarda, adesso non voglio dirti una fesseria, ma io mi pare che il 140, no, l'avevo preso, il 140 è uscito dopo il 430, dopo il 140 hanno fatto il C80, che c'era lo stesso, sono simili, uguali, però c'è la scheda dei 6 metri, dei 5 140, l'originale non va così, eh. Io ho aperto a tutte le mie radio cable, quindi ripeto ancora una volta, 140, 680 che sono gemelli ma con la scheda dei 50, e il 430 e il 440 ho aperto a tutti la LC, ok? Praticamente ho dato in più, proprio un pelino in più, il consenso alla spinta del modulatore, altrimenti questa modulazione non la ottiene mai nessun 140, nessun keyboard. Infatti mi sa che le uniche radio che sentite a questi livelli sono quelle che ho venduto io, le altre sono molto molto più ristrette. SSB che cos'è? È differente da queste? No, ma le bande USB e LSB, una la usi da 10 in giù e l'altra dai 10 in su si usa in genere la USB, se no nella parte bassa si usa le LSB, le cose convenzionali, infatti il 440 te lo dà in automatico questa funzione, poi puoi anche commutare come vuoi. SSB che cos'è? Banda laterale superiore, banda laterale inferiore. Studia tre cose, Antonio, però te studiare. Aspetta un attimino, Antonio, che non è quello, ma sto dicendo, l'SSB che cos'è? Banda laterale superiore, banda laterale inferiore, in pratica USB e LSB. Basta, poi c'è CW più normale, CW più alto. Se tu guardi nel 104 e 103 sono uguali. Tutto lì. Poi c'è la MFM, uno AM a pietra è modulata, l'altro invece è frequenza modulata, tutto lì. Non ho fatto bene la domanda. Allora tu mi stai dicendo che sì, una è la superiore e l'altra inferiore, però l'SSB che trovi nei baracchini, a che banda corrisponde? Sempre la 27, allora c'è la M, ti spiego, c'è ampiezza modulata. Dove c'è l'ampiezza modulata c'è un'altra banda, che allora l'FM non esisteva per niente, se la chiamava l'SSB, che poi l'hanno suddivisa in due porzioni. Una è banda laterale superiore, l'altra è banda laterale inferiore, hai capito? E poi è nata la frequenza modulata, l'FM, tutto lì. Sempre nell'ambito della 27. Realmente, considerando che, come mi ha detto Fabrizio, la LSB si trova giù sotto i 10.000 e la USB sopra i 10.000, dovrebbe essere l'SSB, dovrebbe essere l'USB per la 27. Posso? Allora, comunque in ogni caso su qualsiasi frequenza puoi modulare sia in AM, sia in FM, sia in banda superiore, sia in banda inferiore. Non è che te lo preclude, sì, no, adesso non lo so, quello chiede a Claudio sicuramente, ma finché non scendi sotto non so quanti kHz, che poi non riesci più a modulare, deve essere un ICV doppio. Però cioè, la cosa è semplice, dai. Cosa vuoi sapere? Questo è il 440 della cloaca. Che cosa vuoi sapere tu? Qual è il problema? Sapere che cosa fosse l'SSB. SSB è il raggruppamento della banda laterale per i radioamatori. Quindi quando mi dico qua c'è un SSB, dico dove? In L o in U? Eccolo lì, basta, finito così, capito. Quindi LSB è quello che si usa, come diceva Fabrizio, al di sotto dei 10.000, USB è quello che si usa al di sopra. L'USB noi radioamatori lo usiamo esclusivamente in 10 metri, quindi 10 metri sono dei 28 MHz praticamente, tutte le altre frequenze noi le usiamo in LSB. Senta, non si è spiegato bene a tutti, allora tu cosa ti stavo dicendo? Eravamo solamente in canale della 27, come abbiamo noi, la banda USB e LSB, che cosa è in base? E abbiamo spiegato, uno è per la zona superiore, l'altro per la zona inferiore, sempre nell'ambito del, sulla 20, dei canali della 27. Poi naturalmente c'è l'FM e poi c'è il CV doppio, no? Che va bene, noi ce l'abbiamo normale e poi l'altro CV doppio c'è, che poi la verità non l'ho mai usato. Tutto lì. Signor Ugabu di Nemagno, un'ora che stavo parlando e mi è schiacciato. Comunque, ti stavo dicendo, Cla, stavo dicendo, siccome qualche volta sono andato sempre rimanendo sulla 27 come frequenza e non andando in frequenze che non mi competono, ho avuto difficoltà nel riuscire a centrare la frequenza, cioè riuscire a centrare le persone che stavano modulando. Quello c'è una tecnica particolare o no? Stiamo parlando di LSB, o USB meglio. No, io il RIT non lo uso mai perché non mi serve, tu c'hai due decimali, no? Ecco perché si lavora con i due decimali, con un decimale ti viene male. Lavorando con i due decimali, con 140, quando tu vai a 7000, per dire adesso aspetta, io facendo la F grande, vediamo se, ecco qua, mi assegnerò una chiedo. Perché vuole ascoltare ci va a segnare a 9.40. Allora io accendo la clef grande e leggo 7075.00. Se non lo centro bene, cioè se non lo sento bene, vado a muovere il VFO centrale. Con i due decimali tu vedi, allora, qua io già lo sento male, perché? Questo è leggermente spostato, allora io cosa faccio? Centrarmelo esattamente a 7074.90, capito? Quindi lui evidentemente non è a 7075.00, ma è leggermente sollevato in su, praticamente adesso sono 75, 90, facciamo circa 18, cioè 14, 15 Hz sotto, va bene? E quindi da lì tu ti accorgi se lui sta modulando effettivamente a .00 oppure se è spostato. Lavora con i decimali, è l'unica cosa, guarda, più semplice al mondo, perché se vai a lavorare con RIT ti succede che magari ne trovi un altro che è centrato e quindi devi di nuovo toccare il RIT perché ti sei spostato di più 10 meno 10, capito? Non usare mai il RIT, usa sempre i due decimali che ce li hai. Non capisco però una cosa, quando la voce inizia a diventare tipo paperino, se stai perdendo il segnale, cioè stai perdendo, stai, o meglio, domanda precisa, stai acquisendo il segnale in maniera più corretta quando si sta ingrossando la voce o quando sta diventando più paperina? Acquisisci la centratura maggiore del corrispondente quando la modulazione non è paperinata, perché se è paperinata ti accorgi sempre che tu vai pian pianino, un lavoro molto, non tanto di tecnica ma di pazienza, perché se tu vai a lavorarci col VFO, capisci subito, lì prendi la pratica e ti accorgi quando attimino, ma queste scariche che ho sentito erano a casa mia o ce le aveva Claudio? No, io scariche non ne ho, forse come è partita la ventola, non lo so, perché quando parte fa il bis. No, no, scariche non aveva Claudio, per niente, cioè, se è stato ce l'hai tu, perché lo sento chiaro chiaro, poi Claudio è come se parliamo dalla finestra noi due. Ma no, allora a casa mia, no, per un attimo si è acceso, evidentemente si è acceso qualcosa a casa qua, dai. No, adesso ho capito perfettamente, a posto così, dai. Beh, te lo faccio sentire, va. Allora. Señor. Claudio. Allora Antonio, devi sapere che uno dei primi HF che tu hai, che avevo io, perché io ho preso il 680 e subito dopo ho preso il 440, il primo 440 che ne ho avuto 8, con questo 10, perché ne avevo due, uno l'ho dato a Sandro e uno l'ho tenuto io, 10 440, ed è uno dei primi che ho modificato davanti, io l'ho modificato davanti sotto il controllo di Carlo di CH23 di Chiaramonte, perché ancora non era molto esperto, e ha una bellissima modulazione quella radio, bellissima modulazione, fa molto molto bene e non ti ha mai dato problemi. Quanti anni ce l'hai? 15? Di 15 anni ce l'ho. Abbiamo dato di Salerno con il microfono, già te lo ricordi? Quando ho aperto di Salerno mi hai rovinato la radio, mi hai detto. Quella mi hai rovinato la radio. Poi quando ci ho messo il GPP a quella peggio, come ti sei incavolato, gli dico, ecco, ma la radio è mia, te l'ho pagata, che cosa vuoi, ti ricordi? Siamo a Cardinale, mi sono incazzato. Dice, claro, come stai uscendo? Benissimo, quello stai usando, il C80 col bip. Cazzo, hai detto la mazza che tiene il variante, non è mai rovinato la radio. E avevi messo la scheda bip, ti ricordi? E c'è ancora la scheda bip dentro. L'avevo passata la cosa quando gli avevo dato un paio d'anni, quando aveva centro storico, perché no, lo potevo utilizzare in quella lupa, solo si guardava la radio, avevo dato una cosa a Adriano, c'era lui infatti, la sto usando lui che era sotto di conti. E vabbè dai, facciamo girare, non so se è rientrato Falchetto, ho detto che fare una commissione. Oh Gigi, sì. Io, Gigi si è allontanato a mangiarsi qualche fetta di anguria di nuovo. Antonio Gro. Tanto sparisce il telefono. Il computer acceso, non mi ha mandato niente. Vuol dire che hai inserito tutto tu. Non c'è rimasto in questo canale. Posso guidare? No, Salvatò, qua non mi insegni a guidarlo. Ah, così, e le marce chi le mette? Ah, automatico è quello che sei tu. Riuscivo a intervenire, vi sentivo ma non stava funzionando, quindi l'ho aperto e l'ho dovuto saldare. No, che sentivo, sempre col baracchino che ci hai aperto, manovri con il trimmer. Ma Roger, ma ogni giorno lo sto aprendo. Già sei santo, ma già ti ne appunti. Ah, ce lo stare. Ah, scusa, ma perché non usi il 140 già, quello che hai con quella modulazione che abbiamo sentito l'altra volta? Si può usare. Non si può usare, tutti usiamo cose che non possiamo usare, anch'io non posso usarla questa radio, eppure la uso. Dimostrami che la sto usando, però siamo sempre lì. Cosa fai? Mi registri? portando, magari ci mette a registrare. Non può registrare perché non può farlo. Quindi ogni operatore che vuole in radio, nelle radio, quando ha registrato. Anche perché non portato il tribunale non vale tutto niente la registrazione. Sì, ma poi basta rimanere alle frequenze giuste, non c'è da temere niente, credo. Anche se sconfini, cosa cambia? Non cambia niente, sono tutte stronzate, ci sono altre cose ben molto più importanti che stare lì a combattere con queste fesserie. Io è anni che trasmetto con un baracchino omologato, però qualsiasi controllo mi hanno fatto, il baracchino omologato è sempre qua davanti a me, quindi non serve a niente fare questi discorsi, dai. Perciò io ti consiglio di usarlo e fregartene altamente le scarpe di tutti e di tutto, perché nessuno né a Sassari né nel resto d'Italia usa il baracchino omologato. Su questo ci puoi contare. Sorgerò. Spiegami un attimino una cosa. Nel caso dovessero giustamente trovartela a casa, cosa succede? Non ce l'hai attaccato su contella, niente, io davanti al baracchino omologato posso mettere quello che mi piace. Quindi lo puoi usare e basta. Staccare il microfono e metterci un trappino. Non succede assolutamente niente. Ti devono trovare modulando, ti devono trovare in uso, ti devono misurare l'oro perché stai usando un apparato di quella dimensione lì. Per il resto non cambia assolutamente niente. Con questo discorso avevamo l'altra volta, io e tu mi sembra, no? Io, anche se faccio la rematore, non lo faccio in modo mio, perché a volte sto in banda HF, a volte sto qua, a volte sto alle bande basse, superiori, eccetera, non me ne frega assolutamente niente. Io ho fatto quel passo per appunto non avere questi problemi, per la retenzione e l'uso. E poi tutto quello che dicono gli altri a me mi entra in un orecchio e mi esce nell'altro. Perché se andiamo in fondo e fondo, a me, queste che ci sono qua, non mi fanno niente. Qualcuno se fanno gli elettroni attaccati e sono cazzi su. Roger. Assolutamente, ma infatti è giusto poi alla fine che sia così. Quindi realmente è importante che non siano attaccate alla corrente sotto antenna, dopodiché quindi le puoi anche tenere scoperte senza bisogno che siano in custodia. No, non lo puoi tenere anche sotto antenna, l'importante è che non ci sia il microfono collegato, basta, tu microfoni hai, lo sto usando come ricevitore. Perciò è sempre il discorso che ti devono trovare nel momento in cui tu stai trasmettendo. Se ti trovano loro che ti stanno praticamente misurando, non registrando, perché quella è una misurazione che fanno loro ti dicono che la stai usando. Addirittura riescono a capire che cosa c'hai. Io penso proprio di sì. Se ricorsi al chilometro, tanto un che vorrei io. La modulazione di YouTube è totalmente diversa, non è parecchio. A meno che non fai come ho fatto io, ma io ho attaccato 24 ottoni. Secondo te chi è l'imbecille che pensa che sia stato un cable? Nessuno. Quando ho attaccato c'è stato il cable con BP, ma tu sei matto. Vero o no, cla? Claudio, è sparito, sì. Vendo. Sta bevendo il bicchiere d'acqua, che non ne ha visto abbastanza oggi. Vabbè. Comunque io sono pesato 80, la verità, non è successo niente. Basta che tutto quello che ho attaccato l'alimentazione dall'antenna, non ti posso dire, non tocchi un tubo. Poi ti devi dichiarare che è apparita la collezione e se non ti fa, ti fa niente, perché queste cose qui sono scritte nelle, se tu guardi nelle cose della FCP, e ci sono i vari processi, ci sono stati per certi apparecchi, certe persone che hanno avuto dei processi e ci sono delle sentenze delle quelle come si chiama, adesso non so come spiegarlo, perché comunque è così. Se tu guardi, salvi subito, ci sono i decreti ministeriali, ci sono le come si chiama, e quindi ti salvi con queste cose. Stai leggerissimo. No, sai, avere non mi piace avere problemi, ma soprattutto mi piace rispettare le regole, però sicuramente non sono queste le cose che fuori legge. Le regole, ma mancano da quando sono stato via Panacchino, 84 fino adesso, figurati. Ma tu mi hai visto un CB che esce con il microfono normale, con una Grand Play e con 5 watt. Io penso che non l'hai mai visto tu. Perché la regola è questa, purtroppo era questa, poi negli anni è cambiata, cioè, neanche il microfono amplificato puoi usare in teoria, né 5 ottavi né nulla, ma oramai, guarda che io ne ho avuto problemi con l'escopo, se te lo sto dicendo, e mi sono salvato il culo, perché sono sceso a Cagliari, ho parlato con il dottor Vizzi, insieme siamo scesi in tre, io, Andrea Maricomio e Angelo Delfino, e mi sono salvato il culo. La verità, perché sono tecnico. E invece un altro non si è salvato il culo per niente, perché sai cosa gli è successo. Ha fatto la cazzata di salvare dei due carabinieri di CB. E ti sto parlando di Palino di Palmarola io, che c'aveva una direttiva, la morracca c'aveva. E usava mi sembra 1000 watt e cose del genere. Purtroppo per lui è successo a Stentino che c'erano dei carabinieri in difficoltà, lui ha preso, li ha salvati, non so cosa gli aveva combinato, proprio i carabinieri poi sono andati a casa sua e hanno sequestrato tutto. E a me, e ha fatto così così in tempo da partire in Brasile, ma l'ha tutto andato in Brasile. Senso, li ha salvati? Non ho capito. Li ha salvati e quelli là sono andati a casa a sequestrargli tutto. Sono andati proprio a sequestrargli tutto, sì. A Bagnolo di Palmarola. Erano due CB carabinieri per esattezza, sono trovati in difficoltà, l'ho preso lui e tramite baracchino non so cosa che gli avevano come, li ha salvati e poi sono andati i carabinieri senza fargli la sequestro tutto quello che c'aveva. Io quando sono sceso giù a Cagliari, c'era tuo zio, la gente dice, a me non me ne frega niente, gli giù, sento così la voce, a me non me ne frega niente, sequestratevi tutto, gli ha detto. Ha giocato, quando sono stato dentro in ufficio, detto questo, ho detto passate anche a me, oggi sono morto, sono stato ragazzo sotto. Quando gli ho presentato, guarda che io ho il diploma, sono. Avevo appena ripreso il diploma del Dedina, per figurati tu. E tu guarda, c'ho il diploma e stavo riparando di apparecchietto per i fatti miei a casa, diretto. Gli ho detto una quindicina, la verità, io ho detto. Perché così, non è che ne avevo solo uno. C'avevo un lineare, io facevo 31, il 550, 30, avevo poca roba, certo, questo mi massacra. Questo gli ho detto, guarda che mia madre mi piglia la roba, diceva, mi ha avuto fuori la presa e buttato fuori l'entrata. E invece, a 3D mi sono salvato per le... per il dottor della cuffia perché sono stato tecnico, cioè ho il proprio diploma di tecnico e mi sono salvato solo per quello, se no ero stato morto come cosa. Sono sceso gli a Cagliari io, Angelo Delfino e Andrea Maricomio in tre siamo usciti, perché lui quel periodo lì era andato a lavorare a Cagliari, alla come si chiama? La paese dove fanno gli cotture, cioè adesso non mi viene in mente come si chiama. E io. Antonio, non è esattamente come hai detto tu, praticamente questi due carabinieri, Antonio, sono rimasti in avaria in mare, ci avevano al baracchino, con un peschereccio, con un, insomma, una barca grossa, c'erano il baracchino in più il VHF marino, hanno lanciato l'SOS così in via amichevole al baracchino, sul canale 1, allora se ti ricordi, Antonio, così era. E la verità non ricordo se era l'uno, io mi ricordo solo di questo fatto qua, che aveva salvato quanto ho sentito io giù da Taccaglia, aveva salvato due che gli ha salvato due carabinieri, poi i carabinieri stessi sono successo andati e dice che adesso si è sequestrati tutto. Cioè a fargli questo verbale. Poi da lì c'è passato l'escopo, addirittura quella volta di altri sequestrati di tutto, e gli ho fatto questi mi ammazzano a me. Quel giorno ti succede, là sono guardato quello che sono entrato in ufficio e l'ho cagato sotto, gli ho fatto questo passa anche a me, invece è stata una persona squisita questo signore qua, non ricordo ancora, era biondina con gli occhi celesti, squisito, dice guarda Antonio, dice non ti preoccupare, dice mi arrangio io, allora è salita da Cagliari, è salita a Sassari, ha parlato con Piras e gli ha detto no, io non girarmi di pratica più le palle a me, di lasciarmi in pace e cose del genere perché c'avevo un diploma eccetera eccetera, da lì mi sono salvato, perché mi sono salvato, se no è stato a questo là mi sarebbe bastato l'appartamento di mia madre a prendermi, e quel periodo lì erano verbali ma verbali grossi. Ma aspetta, siccome Antonio mi avrebbe capito salvataggio così allora. Ma non ho capito perché, cioè come l'hanno salvato. Praticamente questi carabinieri erano in mare, hanno avuto un'avaria al motore e c'era un forte maestrale il giorno, quindi stavamo andando alla deriva di brutto. Cosa è successo? Che Franco Panino aveva una bella stazione lì a Palmato, aveva la direttiva, e li ha sentiti. E si era iniziato a parlare, e dice, ma lei dove abita? Aspetti che le giro la direttiva, adesso non lo sento, dove siete, dove non siete? Tanto quelli continuavano a fare domande a lui e lui rispondeva imbecille. Capito? Io sono qui, c'ho questo. Alla fine ha detto, scusi, ma può passare in VHF nel canale 8, VHF, così ci sentiamo meglio. E lui, sì, passate anche lì, c'ho anche quello, tutto. Quello che volete, ditemi, io dite dove siete, mando l'elicottero, ma ne vuole manda poco di cose. Insomma, alla fine è riuscito a far uscire la motovedetta per telefono, eccetera, gli hanno dato la motovedetta, hanno recuperato tutto a posto. Mi pare che avessero portato la barca in porto a traino al porticciolo vecchio di Sentino, non era fatto anche l'ho fatto il molo nuovo, e da lì i carabinieri con la guardia di finanza, eccetera, la capitaneria hanno informato che il salvataggio era avvenuto tramite questo signore bim bum bam, e hanno informato i carabinieri stessi del loro nucleo operativo, che era quello di Porto Torres. Sono andati, hanno informato le scorraglie, tra l'altro la polizia postale, non è andata alle scorraglie, ma è andata la polizia postale, non lo ricordo perché me l'aveva raccontato il povero Bartolomeo Chisiele, ma che era molto amico di Franco Panino, perché il nipote era di Palmadola di Bartolomeo Chisiele. E quindi insomma hanno informato, sono partiti la polizia postale e da lì l'hanno massacrato. Quando gli hanno fatto il fermo giudiziario, lui ha fatto praticamente sparire quello che poteva far sparire, ed è partito in Brasile, non si è più fatto vedere. Gli hanno sequestrato tutto quello che c'era all'interno di quella casa, radio, controradio, lineari, ma ci aveva, guarda, io ne ho, è una tazza piena, ma io penso che lui, pirata com'era, ne avesse più di me. Hanno sequestrato tutto. Poco corretti, perché io dico che nel momento in cui c'è un'emergenza sei autorizzato anche a entrare in frequenze dove non puoi entrare, capito? E sono state poco corrette, anzi io, è strano che al processo non sia saltato fuori, perché al pari di quando tu, persona che soccorri qualcuno che ha avuto un incidente stradale, puoi guidare anche senza patente perché c'è un'emergenza, perché c'è una causa, e dico anche lì hanno fatto davvero male, poco corretti. No, Antu, non sono d'accordo, perché se tu guardi, se mi ricordo che articolo è il 15 o il 32 del Ministero delle Telecomunicazioni, prevede delle grosse sanzioni per noi radioamatori. È la stessa cosa per il CB, stiamo parlando di operatori radio, quindi uno o l'altro, essendo autorizzato a avere quelle determinate frequenze, ad operare in quelle frequenze, nel modo più assoluto, non sono d'accordo. Al momento in cui loro gli hanno detto, lui già stava parlando nei canali 1, perché Pescherici stava nei canali 1, ma mi sta bene, sì, OCB, ok, noi abbiamo, quelli continuavano a dire, noi abbiamo un'emergenza, quindi lei deve far di tutto, cioè ci deve aiutare. Lui lì, quando loro gli hanno detto, al VHF Marino possiamo parlare sul VHF Marino, quindi ci sentiamo meglio, lui doveva dire no, io non ho il VHF Marino, se voi state in ascolto sul canale 16 che è collegato con la capitaneria, come è successo a me una volta, appunto voi state, lui doveva rispondere in quel momento, no, voi avete il VHF Marino, ah, perfetto, allora rimanete in ascolto sul canale 16 che è collegato con la capitaneria di Porto Torres e Circo Mare Tintino, io informo la capitaneria e vi metto in comunicazione con loro, ma via telefono lui questo doveva farlo. Ha sbagliato ad interferire ed entrare lì, perché lui non è autorizzato, nessuno è autorizzato ad entrare nel VHF Marino, nelle bande marine, se non con natante. Quindi se tu sei in mare puoi comunicare con un altro essendo in mare, ma tu da terra non puoi entrare. La legge parla molto chiara, perché non si è autorizzato. Il VHF Marino è autorizzato ai natanti con tanto di concessione e permesso dalla capitaneria, altrimenti tu non puoi entrare, neanche io posso entrare. però io credo che sia tu che io, una volta, se c'è una coscienza, e se non sei nella condizione di poter fare quella telefonata, ma ti nafutti, entri dentro le frequenze, dopodiché chi si è visto si è visto. Io obiettivamente il rimorso di non salvare una persona non me lo otterrei, punto, poi. E c'è, a venire lì hanno sbagliato a fare quella carognata, però non c'è lì il rimorso tu di poter decidere in quel momento, giustamente, perché se io vedo un incidente e mi fermo a soccorrerlo, ho fatto il mio dovere. Se non mi fermo a soccorrerlo, me ne vado, oppure prendo un letterio e mi denuncio la provvisione di soccorso, perché quello è morto, è la sua, è lo stesso, quindi fatto male fermarti. Ma non è che in quel momento io sono un radioamatore, ho il VHF a 430, 0,25, una frequenza X, e so che i carabinieri, perché ho la sola frequenza dei carabinieri, vado lì e metto il drogo su Mao e dico, sono Pippo Franco, c'è un incidente in via Le Mameli, ma tu che sei? Ma chi è questo? A me non ti metto le manette, mica puoi centrare la frequenza e dire che c'è un incidente, perché in quel momento non c'è il telefono, non esiste, fermo un'altra macchina che c'ha il telefono, faccio mille modi, però non posso andare a interferire con le autorità competenti perché non sono autorizzato. Assolutamente sì, non sto dicendo questo, ma se c'è un pericolo grave e imminente, un pericolo grave e imminente, ti ripeto, dove tu non puoi agire diversamente, cosa faresti? Tanto è una situazione, certo, mi metti in imbarazzo con le risposte, è una situazione che io ti capisco, è chiaro che anch'io sono del tuo parere, però sai, in quegli attimi chi è preposto a fare certe cose si trova un po' così, e sono d'accordo con te perché io non l'avrei mai fatta una cosa del genere, una coloniata del genere, però sai, quelli si sono sentiti sicuri, con i piedi in terra, poi si è salvato, è autorizzato a fare, sai, sono anche carognate, sono d'accordissimo con te, anzi è una grande carognata, perché insomma, ti ho tolto dai guai, mi hai fatto una domanda, io ce l'ho, io potevo anche dire sì, io ce l'avevo a casa, e quell'attimo acceso, perché stavo ascoltando le barche, però c'ho la barca, perché Panino ce l'aveva la barca, Franco ce l'aveva bella pure, quindi potevo dichiarare benissimo che il VHF Marino era del suo mattante, e quindi la cosa secondo me in quegli anni non era molto complicata, anche perché lì c'erano diverse da adesso, perché il VHF Marino oggi come oggi tu a casa non lo puoi accendere, in quegli anni e usare soprattutto in quegli anni che i pescherecci non avevano ancora inserito nell'articolo di legge del Ministero delle Comunicazioni l'uso e l'utilizzo del VHF marino sui nattanti, tutti avevano il baracchino e mi ricordo parlavano sul canale 1 e c'era un troiaio che non vedeva bene il video, non so se ti ricordi. Quindi in quel momento lo poteva dire, io ho il VHF marino, sì, però è della mia barca, l'ho comprato perché so che la legge fra qualche mese prevede l'uso del VHF marino in barca anziché il baracchino, capito? E quindi si poteva tappare, non ha fatto neanche quello, si è completamente cagato sotto, ha mollato tutto ed è sparito. Un po' esagerata infatti mi è sembrata la situazione, gestita in una maniera diversa ne sarebbe uscito anzi da eroe. E comunque a prescindere da questo, ma l'assurdità della cosa è che tu non puoi accendere un VHF marino a casa, neanche in ricezione, però allo stesso tempo puoi usare uno scanner che ha anche quelle bande lì. Quando non ci piova, la ricetta non ci piove, la ricetta di S1QL dice che le frequenze operative tanto sono quelle abilitate ai radioamatori. Attento. Quindi un S1QL non è che perché la licenza di S1QL può avere quello che vuole, no, non lo piace assoluto. Se tu c'hai uno scanner, quello scanner deve essere non canalizzato, però deve essere uno scanner non a sintonia continua, come ti ho letto per esempio l'altro Ma sì, assolutamente sì. E poi adesso non esiste neanche più, o meglio esiste, te lo spediscono se ne fai richiesta. Però il radioascolto è libero, credo. Non lo so, è una legge che non ho più, però io sto parlando della mia, io parlo di quelle concessioni del Ministero delle Poste e delle Comunicazioni, direzione compartimentale per la Sardegna, ufficio aperto, Cagliari. Questa parlo del 1986, questa è l'821CA, e se lo vede il numero, cioè, ma è un cartoncino proprio un attestato come quello che c'ho dell'Ari, insomma, con due parti alla bollo, eccetera, dove dietro ci sono proprio le frequenze operative per quanto riguarda quella licenza di radioascolto. Oggi non esistono neanche più i ricevitori decametrici, così chiamati da noi, decametrici, oggi sono a sintonia continua, quindi è chiaro che sono liberi, tu giri, vanno da 50 kHz a 1 giga, quindi immaginate tu dove vanno prima che ricevito ricevere. Io ho qua davanti a me il Black Jaguar, Antonè, uno dei primi ricevitori portatili, decametrico, portatile, è stato uno dei miei primi gioielli, ci attaccavo l'antenna col connettore N, l'antenna sul tetto, ricevevo il mondo, ricevevo tutto. Adesso non esistono più, è chiaro, queste cose, quindi sono d'accordo con te. Uno che compra un ricevitore come quello che ho io, ICR7000, che parte da 50 kg, te l'ho detto, a 2 giga e mezzo, tutto completo, HF, VHF, UHF, tutto, radio, stereo, bombe a mano, elicotteri, c'è tutto, è chiaro. Ma io parlo dell'era di oggi, e quelli che c'erano prima, com'era? Ecco perché oggi le SWL sono libere, chi ce l'ha pensa di fare quello che vuole, ma non è così, non è così. Certo che sì. No, ma c'è abbastanza disinformazione da questo punto di vista. Pomponio, riprenditelo un attimo. Ma ti volevo dire, via Cavalcanti era la prima concessione, numero 8, finalmente. Esatto, anche questa SWL, l'ufficio aperto della regione di Cagliari, via Cavalcanti numero 7. E 8 mi ricordo io, perché avevo fatto la prima concessione, l'avevo fatto fare. Poi è stata trasferita in RTS e siamo andati in RTS a concorso con Angelo e Andrea, eravamo, perché lui era giù a Samazzai. Siamo scesi lì con Angelo e avevo fatto quella cosa lì, figurati. Allora siamo andati in ufficio, mamma mia, gli ho detto di no, questo mi trovo in pace. E invece sono andato ben salito su lui, mi ha eliminato il verbale. È stato in gamba, veramente in gamba. Ma meno male adesso salvato, perché dice tutti sul dico di essere te che ci aveva detto. Dice, guarda che questo ti prova me. Questo l'ho pigliato adesso 2 mesi fa. Allora, bene, bene, mi ha detto, signor Vittau. Tutto a posto. Mi dica, signor Coso, non mi interessa se è suo, ci penso io. A Guido. Meno male, gli ha detto, poi mi ha telefonato un giorno. Dopo 2 giorni che ha detto sua casa, se mi aveva telefonato tutto a posto, mi ha detto. Mi ha ringraziato eccetera. E meno male, ho avuto l'intelligenza di scendere giù, perché non si poteva fare così. E sono stato tranquillo. Comunque la RTS erano trasferiti, adesso non so dove. Perché la prima mi ha rotto le balle. Ogni volta metterci io per. Perché veniva bistoccata tutti con lineare, no. Da quando ero trasferito da Fiorentino a qua, non ho più visto nessuno. E non ne faccio più concessione, non ho detto mai sbattito più niente. Per farmi staccare come giù, no, non esiste, gli ho detto. Tu che ricevitore hai, Anto? Cattolo, te l'ho detto, stavo concorrendo adesso su un'asta eBay per un Kenwood. Come ricevitore, se non mi ricordo quale fosse la sigla, però quello che ho io è, no, non è un giocattolo, attenzione, è un signor ricevitore portatile, che è l'ICR6. Signor ricevitore, sì. Quando parli di ICR, Dio Claudio è preparatissimo. Dico, per me sono i migliori ricevitori al mondo, che siano portatili o siano base, sono i migliori ricevitori al mondo. Se riesci a trovare, anziché Kenwood, che sicuramente stai partecipando per il 5000, il migliore in assoluto è il 7.000 ti consiglio di prenderlo al volo. Il prezzo di mercato è intorno alle 400 euro, il telepro. Quando ci sono queste aste riesci anche a tirarlo a 250-300 con un po' di culo, però c'hai un ricevitore a livello mondiale, non ce n'è per nessuno. Noi radioamatori siamo tutti, dico tutti in esclusivo, ICR7000 come ricevitore a sintonia con Dio, perché non ce n'è per nessuno, una selettività allucinante che permette di ricevere tutto con ottimi segnali, è come un ricevitore, ha tutto, le manca solo attacco del microfono, ma c'è tutto, filtri, controfiltri, frequenze, per esempio c'è FM larga, FM stretta, l'SSB che è appunto USB e l'SB CW completissimo, c'ha tutte le funzioni immaginarie che ci possono essere su una radio ricevitore. Aspetta, se mi dai due secondi ti dico della sigla. Dimmi la sigla, sei il 5000 della Kenwood, di Kenwood R5000 comunque c'è scritto. 3000, 5000, perché 9000 è uscito poco. Di che bellissimo. No, ti immagini che lo sperviero un valore Black Jaguar, quanto riceve quello. Non so manco se funziona più, perché era batteria, ma io l'avevo fatto direttamente la corrente a 12. Adesso una giovana, ormai l'attacco, vedi, tanto c'è l'attacco DNC, zitto l'antenna e gli attacco l'antenna esterna per vedere se funziona riceve. Ma è decametrico, c'ha le bande riservate alle maturi, però c'è anche le bande basse, dove sentivo tutti e tutto. Ma Falchetto bucato, dici, Antonio Falchetto, tu è che mi hai fatto uno squillo? Sono fatto, Antonio. Ma io ci ritrovo, non è per niente, no, spendo solo di più, basta quello che spendo. Lo spendo anche troppo per i banchi. Parecchi, basta quello che c'ho, basta, meno un po' se l'unica cosa che mi piglio un paio, un po' di un UHF come ci serve, stazione base e un V che faccia tutto, basta, no, non prendo altro. E poi mio papà deve fare qualche pianto d'antenna, non spendo più nient'altro, spendo anche troppo, se faccio quanto di quello che c'è, spendo, ci usciva non un'auto, no, ci usciva un autobus, ci usciva. Va. R3Z1. Ehi, R3Z1 è quello che si mette nella macchina, che sembra uno stereo di macchina. Uscio Maria, è stato uno dei miei primi ricevitori dell'R3Z1. È uguale a uno stereo. C'è una cosa che tu e io sono fuori. Sono là domani stesso, torre Sagittario. Ma ce l'ha? E certo che ce l'avevo io qua a casa, gli ho cambiato le lampadine, se lo vuoi sapere. E uguale lo stereo, preciso identico. È bello, veramente bello. C'è MFM, FM, c'è l'FM normale e l'altro FM, c'è quanto mi ricordo io. Comunque l'ho avuto io qua, per più di un mese l'ho avuto. Figura, poi gli ho detto guarda, te l'ho portato a casa e te lo sono uscito a prenderlo. E tutto cambiato, tutte le lampadine che erano bruciate, infatti montava le lampadine che piccoline, non da 12 ma addirittura da 9 volts. Giro. Ma ne vale la pena, quanto la valutazione quant'è? Comunque 100 euro sta valendo Tone, magari trova anche per di meno, basta che scende al circolo, glielo dici, ce l'ha anche la sua, ce l'ha centro storico. Chi è il Sagittario, Antonio? Dove c'è il circo lì dove c'è la torre di Sant'Antonio? A fine corso Vico. Se posso interrompere? Poi oltre tomba, dove stai andando? No, niente, sono uscito a prendere la mia figlia, voleva un ghiacciolo. Poi mentre mangiavo la televisione era spenta e sempre sul 10 mi stavo ascoltando tutta la storia, dai, meglio della radio normale, fatto sta, non vedo l'ora di venire a casa tua a vedere tutta la, tra virgolette, la ciambusaglia, dai, non vi disturbo più, continuate a parlare che vi sto ascoltando. Ti permetti di chiamare la roba mia ciambusaglia, poi se mi porti il ghiacciolo, tu ti mangi il ghiacciolo e io ti faccio vedere la radio. No, ti chiedo scusa, tra virgolette ho detto, perché da no, non voglio essere troppo lecchino, solo per quello ti ho detto così. Ah, vai, anche vai, finita, proprio quando vuoi non c'è problema. Quando vuoi, io la sera sono sempre a casa, no, non aspettare a domenica, guarda, domani sera uscirò sicuramente a diretto lavoro perché alle 3 devo portare la macchina in servizio a fare la revisione, non quella che c'è nuova, l'altra, e ne ho due a casa. Ma mi sbrigherò abbastanza presto, quindi alle 5 e poi, dopo le 5 sono a casa, no, non ci sono problemi. E sono sempre qua, tutti i giorni, a così, a fare due chiacchiere, a scherziare, ma anche a parlare di cose serie come stavamo parlando poco fa, che sono molto molto importanti, quello sì. Però, a qualcuno piace, a qualcuno no, anche me. E lo so, infatti per quello, non vi ho interrotto, senza muro, ascoltato e basta, dai, comunque, ti auguro buono, non ti lo... dai che mi state facendo, dai. A domani allora, nel frattempo rimango in ascolto, imparo, vai vai tranquillo. Ehi, abbiamo tutti roba da imparare, altrimenti, l'ho già detto, nessuno è maestro, mettiamo a disposizione quello che hanno insegnato gli altri a noi, questo è il mio motto. Comunque ti ringrazio, buon QRX, saluto nel cuore a famiglia, avanti Anto. Ma non ho capito, e siccome oggi sto ricevendo più basse di una settimana, boh, non so perché. Ma è in cosa? È in baramobile Antonello? Ehi, a te, sono in baramobile con quello che ho comprato essa guidando mia moglie, non so neanche come mettere la prima. A prendere il gelato a mia figlia, Coretta, che metto, lei me lo prendi un gelato. E sono sceso giù in piazza a prenderglielo. Oggi, ma dove? Giù in piazza Ossi? È in piazza, non li compare aperto, e allora? No, perché mi stavo muovendo anch'io, se mi danno 5 minuti infatti vado, attacco il baracco un attimino in baramobile che devo andare a fare una cosa. Va bene, non ci sono problemi, siamo qua, anche se non ci stiamo a lungo, sono già le 11, domani è giornata lavorativa, ma io non ho riposato dopo pranzo, ma ho tenuto abbastanza, ho tenuto molto oggi, quindi sicuramente come metto la testa sul cuscino crollo. Comunque Anto, vabbè, devi andare in macchina, vai. Di quel Rich ti mi sto mettendo, già te lo dico quando stacco. Bene, comunque l'ho detto, uno è un buon ricevitore di quegli anni, giustamente, ma è fortissimo, fa tantissime cose. Vedi, quello però occhio è, non è a sintonia continua, è decametrico quel ricevitore. Questo vedi è una buona informazione. No, l'ICR6 vola da i 50 MHz ai, no, 50 MHz, valle, 50 kHz fino ai 1300. Da 1 giga e 3, da 50 kHz a 1 giga e 3, ricordati. Ottimo, ottimo, ottimo, mentre l'R31 ai passi, da 12,5 con le scansioni, tutto, però non è a sintonia continua, è decametrico, quindi occhio, adesso io non mi ricordo le frequenze esatte, però è decametrico, vero Antonio, non è la sintonia continua, aveva quella tastiera tipo radio. Esatto, sì, comunque arriva fino a 900 MHz, 900 qualche cosa, non lo copre tutto, quindi è a salti comunque. Dice i saldi, quelli che erano segnati in quell'era lì, insomma, dai, c'è tutte le bande amatoriali, i 10, i 15, no, c'è i 10, i 20, i 40 e gli 80, poi c'è le bande varche che sono i 15, 18 e 22, 20, 21, scusa, sì, mi ricordo così io, e poi le V e le U che erano appunto la 144, 146, era 430-440, quindi molto limitata rispetto a oggi. No, già stavi più di 146, 470 se non ricordo male, perché io ho fatto la prova col BMR e a voi li raggiungeva, quindi il BMR che c'è di 406, con 470 arriva, poi sarei anche di più. La verità è che non lo ricordo bene bene, comunque i 900 ce li ha, perché ce li ha per fa. Lo sta valando intorno ai 100 euro, dove? Forse lo dà anche qualcosa di meno, perché l'avevo sistemato, e guarda, detto, non si sentiva, però se non si sentiva. Vedete, questo apparecchio non si sentiva di spray nulla, neanche la lampadina, è giusto strano. Allora appeso, ho smontato l'apparecchio e gli ho cambiato la lampadina, ho detto guarda, ti ho cambiato la lampadina, ho detto monta la lampadina, ho detto non è una cosa un po' strana, non va 12. Che l'ho cambiato ed è perfetto, un bombo, ma è veramente bello da vedere. E sembra un altro di macchina. E tu c'è la FM stereo, c'è l'uscita stereo, quello, per quello è bello, perché sono pezzi in macchina che lo puoi camuffare tranquillamente. Il ricevitore è a stereo normale. Sì, ma mi ricordo che non andava a 12, aveva l'attacco a 9 volts, perché dietro, se ti ricordi, c'era quell'attacco piccolino e poi la batteria, che praticamente era un riduttore di tensione, boh, non mi ricordo cosa fosse. Sì, beh, sino a 900 me lo ricordo, e poi andava sino a, sì, era abbastanza espanso per le U e per le U, però c'era una modifica che bisognava fare, mi pare tagliare un diodo all'interno, qualcosa del genere, perché c'era la panna e la rotità, non figurati, dell'R1, era l'unico ricevitore che si poteva in macchina, si metteva in macchina al posto della radio, dello stereo, perché faceva dal ricevitore e in più anche le canzoni, quindi era un normale, una normale radio di macchina. Se non ricordo male c'è anche l'RDS, non voglio sbagliarmi, forse 240, ma mi sembra c'è anche l'RDS. Sì, sì, era una normale radio, me la ricordo io, perché ce l'avevo una 126, figurati. L'avevo messo al posto della radio. Al posto della radio avevo messo l'R31. Quella novità carotita non se l'aveva comprata anche lui. E cantava, cioè, benissimo, c'entra le sintonie in AM/FM. Con tutti i passi, tutte le cose, andava molto bene, mi ricordo. Infatti in quel tempo lì, se ti ricordi, prendevano l'adattatore dove con l'antenna della radio potevi ascoltare anche l'attacco, era praticamente anche per il ricevitore, era per quello. No, c'è due indirizzi, uno per la radio e uno per l'antenna normale, una. Perché mi ricordo, uno si lanciava il piede, l'altro andava normale, c'erano gli attacchi, e poi c'è il commutatore, c'è. Per commutare antenna 1 o antenna 2? Ma io avevo comprato l'adattatore con l'antenna della radio stessa, erano quelle antenne lunghe delle vecchie macchine, no? Quelle in ferro, ti ricordi? Con quella lì, con l'adattatore, non avevo messo due antenne, con quella della radio ricevevo anche dal ricevitore. E sento uno bestemmiando, non mi ricordo essere, sta bestemmiando sopra o senti? Oi, Domenico, dove sei? Dove stai rientrando? La Urbia? Ti vegliani. Quindi sei partito, boh, anche ora abbiamo sentito, le 6, le 7. Stai già rientrando, stai. Ma senti cosa fa adesso? Va, posiziona quello, prende l'altro e torna a partire a Urbia, così devi fare. Oi, tu sei un pipistrello, non sei d'Antonetto, tu sei un pipistrello, vai Antonetto, senti. Mia moglie che lo sento, ci mancherebbe. Quindi adesso non ci va più Alghero, andiamo Alghero e poi rimaneva lì, adesso invece fa Sassari Obbia e Sassari Obbia. Quindi dorme a Obbia stanotte, poi domani mattina di nuovo a Sassari. Non lo so, ma mi ha detto che praticamente deve riagganciare e riandare. Allora fa Sassari Obbia e poi Sassari Obbia in pratica. Lo sentivo basso, deve essere forse in qualche zona, dovrebbe essere vicino a San Carlo, senz'altro. Domenico, ci sei? Secondo Arda, lo sei? C'è stato con l'antenna bassa al vivo, meglio così, con 5 watt di apparecchio, qua. Già si fa, già funziona bene la 5 watt ancora. Non so se sia un metro 50 dal pavimento. No, ne funziona bene, a voglia funziona bene. Non ci stanno problemi. Dove sei arrivato con me? La prima volta da dove che hai chiamato, mi senti? sono contento che questa radio è contenta. Va bene. No, io non c'ho un filo di QRM, però sinceramente Antonello che ti ha registrato prima, perché la verità non stavamo lasciando bianco, e quindi niente. Mi dispiace che Falchetto sia drumido e quindi no, non ti poteva rispondere, sennò lui ti rispondeva prima di me. Ok. Vediamo se Antonio Grotti è uscito in macchina, Antonio. Non riprendi il tuo volante, ma dai. Stavo bestemmiando due passeggeri prima, forse di guarda che ho sentito uno bestemmiando ed era lui, figurati. Arrivare di lì, guarda, è anche troppo per me, per lo vero. La Paola di Arizzino arrivavo a Santiago, mi ricordo, mi sembra quasi 9, arrivavo, diceva la B27L, guarda la mia modificata, con tre radiali di gran provincia aperta, e arrivava a Sassari. Ci parlavo spesso, allora, quando parlava G91 di Aproa, che ci parlavo tutti i giorni, figurati. Bei tempi, quelli. Poi Paola mi sembra, non è pensata, ha chiuso tutto. L'ho anche conosciuta, perché un giorno sono sceso con Piero Andrea, la verità. Perché ero curioso di conoscere questa Paola vecchiera. È un paletto piccolo. Figurati, sembrava rientrare in quei film, in quei bar dei film americani dove ci sono, tipo, so dire, che arrivano i camminetti tutti belli, tatuati, cose, sembrava di essere in un film di quelli. Avanti. No, aspetta, dove c'è un break, avanti, break. Sì, Barney, ciao, buonasera, ben ascoltato. Lasciate sbarcare i turisti, non 26. Cosa ci vuole, ci vuole? Ma non è che esce. Quando entra, entra. Volete parlare, hai fatto io? Sure. dove sei arrivato con me? Andrà, e allora ti perdo fra un po'. Fammi quel colpo di telefono quando vuoi, dai, ok? Ok, per me un abbraccio, ci sentiamo, dai. Antonio, riprendi. Ci sono i pernacchietti e stanno ascoltando ancora, ma ne hanno sonno. Vai, cucati di verte presto la mattina, vai. Antonio, riprendi. Non ho sentito una pernacchietta, infatti. Domenico, mi esesi. Ah, mi riosi per prendere le gallerie, mi riosi. Non gridare, cazzo, mi hai fatto sordo. Vedi che non sentisse lo stacco del microfono. E convinto non conosci di nessuno. Giù, giù. Non gridare, domenica che c'ho le cuffie, vai a far culo. Ah, bocca. Non mi senti anche in buca, giungia. A te ne ricordi quando modulavo parlando di qualcosa, quando quel giorno rispondeva la prima, la seconda galleria addirittura, figurati tu. Cazzo, ma cosa cazzo c'è, Antone? Ti sento dentro la galleria, parlavi con me come se fossi dietro. E io non c'ho niente, a te non c'ho. In quei tempi quando facevamo i monelli, neppure a Riffeddo, si attendia nel blu lampione a piedi. E quello sì, io me lo ricordo. E bella zona quella di Riffeddo, guarda, veramente bella, guarda. Mi ha fatto male mamma per dire la mansarda, se non avevo avuto la mansarda, se non avevo venduto la mansarda, mi sono andato lì a pizzare, ti giuro, con la mantova turbo, anche la mantova 5 mi sarebbe bastata, quello che c'ho adesso. E allora sì, ne avrei trepato un bel rigente, è stato tutti i giorni, facevo il DX, anzi DX, DX un corno, perché parlare da lì parli in diretta con la Spagna, tutti i giorni, mattina e sera. Tu figurati, c'era Ivan di Monteoro, me lo ricordo ancora, Ivan gli faceva un pizzo parlando, ho detto sei a Monteoro, ho detto Ivan, parli con tutta la Sardegna, ho detto non senti lo spagnolo, dice no, lo spagnolo non lo sento, ho detto ci parlo tutti i giorni con la Spagna, dice io non lo sento, Antonello, comunque non c'è problema, adesso non so se è ancora vivo Ivan, la verità, perché era morto il figlio, e addirittura è morto anche Elio. Ti pare che lui è ancora vivo. Il fratello di coso? Ma quello di Montero, te lo ricordi, il vecchietto. Che c'era il figlio modulava dalla cosa, dalla motocarrozzella. Faceva trasporti di roba a Santa Maria, finalmente. Ah, ma in quel vecchietto c'era quella moto che una volta l'ho visto scendendo a Monteoro, sembrava un tedesco con quel casco che c'aveva gli occhiali, il casco con gli occhiali della prima guerra mondiale. Ivan siciliano, te lo ricordi? Mi sembra che ancora vivo quello. E beh, sono molti, il figlio è morto, era morto addirittura anche Elio, figurati tu che lui voleva come genero, perché voleva che si sposasse una figlia, lui vai meglio niente, e faceva. Tanto poi se è morto il figlio della più giovane, lui via i 90 anni è ancora vivo. Bah. Non lo so, a Gio Maria bisogna dirlo. A Gio Maria dirlo, parlava sempre con lui. E a Mario Mao, non so se è morto lì, no. Di grande Monteoro, già non lo incroci. Da me dove sei arrivato? Ma Cincolino, quando mi sono entrata. Ma è Vittorio Nuvola Rossa che poi che fine ha fatto? È sceso il fulmine in casa. Ma sta bene, si trova ancora, sì. Sì, lui già sta bene, non ti preoccupare, già è vivo. Vittorio Nuvola Rossa. È sceso solo il fulmine in casa sua, gli ha fatto un buco di, non so, di 4 di diametro nella soffitta del palazzo suo. Ha preso, ha staccato tutto e ha regalato tutto. Tutti i barattini che aveva, li ha tutti regalati. Anch'io! La Mantova? La Mantova l'ha fatta come cosa, l'ha fatta diventare come la banana. Cazzo, signori belli. Cioè, bisogna fare cose fatte bene, ragazzi. Cioè, la Mantova, sì. È una penna che attira, può attirare, non è che attira, può attirare una scarica atmosferica in qualsiasi momento. Se il fulmine è molto basso, il raggio del fulmine, come dice la punta alta, ma deve avere molto culo. Ma ti ricordi bene, in quella zona lì c'era la dragovaglia dell'acqua, quindi non c'è antenna che tenga qua. Dove scende il fulmine è come la pompa sommersa, di qua da tutto, non vedo da di qua. Se il palazzo è privo di parafulmini, è chiaro che la prima cosa alta che trova l'antenna è il picchialino. Ma se c'è il parafulmine, scarica sul parafulmine. Sono quattro parafulmini sopra il mio tetto, quattro. Ce n'è due in una testata e due nell'altra. E sono leggermente più bassi dell'antenna. Però non si vedono perché sono sull'altro lato, però ci sono. E scaricano direttamente da su, nelle canale fatte apposta, non da noi, dall'impresa che li ha costruiti, che li ha messi in funzione, scaricano direttamente a terra con le trecce di massa da 8 mm quadri in rame. Cacco, se non ci sono quelli è chiaro che scarica sulla punta più alta, in quel caso era la sua antenna. Ma comunque gli è successo così, e infatti l'ha regalato tutto. Il Saturneco gliel'ho salvato io, l'ho aperto e c'era dentro tutto il trasformatorino di alimentazione che ho fatto, non il trasformatore quello grande, no, quello del circuito stampato c'è dentro, lui c'è quello con il sensore che scarica la massa, tutto quanto bruciato. Ho fatto il collegamento diretto e ho visto l'apparecchio acceso e c'era qualche altro problema, una cazzata e poi ha funzionato subito. Capito? E anche il coso ha recuperato, il microfono ce l'ho qua io, il microfono del suo, che è abbinato al Mobicom. Il Mobicom c'era Mario, anche il Saturneco c'era Mario, l'avevo tutto regalato a lui. Invece il Kevu non lo so che l'abbia dato, so che ha regalato il Kevu ma non so a chi. Il Kevu, perché cosa ci aveva? Il Kevu di lui? Non lo so. Non mi ricordo se era il 430 o 440, comunque c'era il Kevu. Mi sembra che avesse 640 o 430, ma sono in pochi che c'erano la stessa di 430. Ce l'ho io per mille motivi. A quell'era ce l'avevamo io, adesso non ce l'ho di nuovo io, però a quell'era lì ce l'avevamo io, Marco 131 e qualche un altro, ma non credo che Torino Rosso, Torino Rosso fosse ora qualche 140 o 450 di, ho capito di chi, il 450 aveva. Non mi ricordo esattamente, comunque l'avevo diretto da fuori perché è stato fatto l'avevo avviato da fuori da internet, è arrivato quello col microfono da tavolo e poi non mi ricordo che cosa gli avevano regalato e basta. Lo usava solo in camera da letto, qualche volta che modulava, poi poche volte l'ha usato, l'aveva usato no, 20 volte da quando ce l'avevano, anche troppo, guarda. Questo usava il Mobicom, Saturneco e un altro apparecchietto piccolino mi fa. Non ho capito. Vabbè signori Bella, io sono esattamente alle 11:30, metto un buon cesto, metto me la mamma, Antonio, ci aggiorniamo domani. Domenico Nichino, un abbraccio grande, fatti buon viaggio di nuovo, buon tutto e ci riascoltiamo domani, dai. Anche stasera la chiacchierata ce l'abbiamo fatta, se lo messo in tre Antonio Grove, salutano domani, poi ci sentiamo e ci aggiorniamo su questa cosa. Se lo messo entrare ci sei tu, e appunto ho passato le mail, il contatto al medio e così me l'ho contatto per la affiliazione FIR. Dai, buonanotte a tutti, alle prossime. Ciao, ciao Romeo. Mi sembra che si trova Nicola con la K, Tesla e poi non mi ricordo cosa diavolo era, la verità, non chiocciola, una cosa per la punto IT mi pare che era una cosa così, comunque. Va bene, ciao, qua ci sentiamo, alle prossime e ci sentiamo domani, non problema, se entra già te lo faccio sapere, te glielo dico. D'accordo, quello che ho detto stasera, metto un po' anche in assenza mia di di tenere in basso questo canale, in alto quello che parliamo sempre, così la gente, io ho già avvisato, qualcuno sta rimontando addirittura l'antenna, ne aveva tolta, queste sono date, comunque adesso la sta ripiazzando e poi già entra, così ci siamo e meglio è, ci siamo e meglio è. Quindi ci prepariamo bene anche per l'inverno, per tutto quello che abbiamo in programma. Ci aggiorniamo domani, ciao, buonanotte, grazie di questione. Mi saluta e a Domenico quando rientra. D'accordo, domani non ho problemi. Domenico, business. Ehi, dai, stavo prendendo il cancello. Ciao, bravo, buonanotte, a domani. Ciao, Domenico, buonanotte, domani. Domenico, quindi stai prendendo il cancello. Fa poco di nuovo la casa, o mi dormirì stanotte? No, no, ho detto, ma è dormire, anche io. Ma io se stasera, vabbè, fai stasera io due ore e se... Alla una se stasera, che so adesso? Aspetta che ti controllo, aspetta. Sono le 23.41, se parti a mezzanotte per un quarto, sei alle due a casa sera. E poi dormi tranquillo per la tua nel letto. Alle due, alle tre? Lì ci vuole un'ora e mezzo male, non mi sono tornato. E vabbè, fai anche alle tre. Però me lo dormi a casa, il discorso è quello, meglio così. E vai a lavorare domani sera, quindi sei due giorni liberi, quindi tranquillamente dormire, tra le tre fino alla una, per dire, poi alle tre vai a caricare, cosa del genere, e poi parti. Io poi mi sono libero fino alle 8 di sera, dai. Alle 8 riparto sempre. E allora già sei tranquillo. Beh, d'estate è molto meglio a partire di notte, la verità, perché è più fresco. Si sta molto meglio e si è anche molto più sveglio, la verità. Come l'aria è molto meglio, l'inverno è più brutto, questo l'aria qua. L'inverno è brutto perché ti viene la noia, però l'estate è bello. Attento, grotte. Sparita. Bene, Domenico, se sei rientrato, io me ne vado a dormire, ci sentiamo domani mattina, domani sera, al limite, quando ti parto.